Buongiorno e ben ritrovati, io sono Matteo Savoldi, admin di Wireless Italia e questa è la puntata numero 3 del primo podcast italiano interamente dedicato alle tecnologie e alle reti wireless. Insomma, sembra proprio che le reti senza fili si stiano diffondendo un po' ovunque. Allora in questa puntata avrò il piacere di intrattenervi parlando di alcune realizzazioni, come per esempio la sperimentazione della tecnologia WiMAX nella zona della provincia di Parma e nella città dell'Aquila. Vi parlerò poi della rete civica wireless del progetto Ferla in Sicilia e del progetto sperimentale WaveTech sul territorio del Sebino Bresciano. Prima di iniziare vorrei però segnalarvi una nuova guida redatta da Stefano Ramponi, che è moderatore tecnico del forum di Wireless Italia, che presenta la modifica di una scheda wireless PCMCA in modo da aggiungervi un connettore d'antenna esterno RP-SMA. La scheda presa in esame è una D-Link DVL G650 che fa parte della famiglia AirPlus Extreme G e della quale trovate una recensione approfondita nella sezione Guide e Recensioni, poi andate nella sottosezione Hardware Review dal titolo Recensione D-Link AirPlus Extreme G 108 Mbps. Vi troverete la recensione del DVL 2100P, della DVL G520 che è la scheda PCI e infine della scheda PCMCI DVL G650. Iniziamo quindi parlando della sperimentazione della tecnologia WiMAX nella provincia di Parma, nella città dell'Aquila. Selex Communication, azienda membro del WiMAX Forum, produttore e leader nello sviluppo di sistemi di telecomunicazione, nell'ambito della sperimentazione tecnologica promossa dal Ministero delle Comunicazioni, è stata accreditata a testare soluzioni integrate con i propri prodotti WiMAX a 3.5 GHz nella provincia di Parma e nella città dell'Aquila. Nell'ambito della provincia di Parma, Selex Communication ha collaborato con la Regione Emilia-Romagna, la provincia di Parma, l'Università di Parma e la Multiutility Enia S.p.A. Per quanto riguarda invece la città dell'Aquila, Selex Communication ha collaborato con l'Università dell'Aquila e con Fastweb S.p.A. A Parma la sperimentazione si è estesa dalla zona urbana fino ad arrivare alla zona montana della provincia. La zona urbana e la zona montuosa sono state così collegate tramite un link WiMAX lungo, pensate bene, 25 km. L'obiettivo di tale sperimentazione è stato naturalmente migliorare la copertura di banda larga nelle zone non servite dalle normali tecnologie terrestri, abbattere il digital divide per le zone disagiate o non servite dagli operatori commerciali e sviluppare servizi di government nei comuni per migliorare la qualità dei servizi ai cittadini. All'Aquila l'esperimentazione si è estesa in ambito urbano, suburbano e montano per interconnettere in banda larga wireless 7 siti universitari, fornendo servizi dati e voce dedicati a utenti fissi ed integrando la rete LAN dell'università. L'ente di riferimento per questo progetto è Selex Communication S.p.A. via Pier Agostini 80 Genova. Parliamo ora della rete civica wireless del progetto Ferla in Sicilia. Infatti la ditta P4D, che si scrive P4D, si avvicina in maniera decisa al mondo delle reti e delle infrastrutture wireless immediatamente dopo l'emanazione del nuovo codice di comunicazione elettronica nel lontano agosto ormai 2003, impegnandosi in una serie di ricerche e test sperimentali in laboratorio concentrati appunto sui nuovi sistemi di comunicazione wireless. L'obiettivo primario era di realizzare un'infrastruttura sul territorio atta al superamento del digital divide. Dopo questo primo periodo di studio teorico-pratico, il management aziendale ha deciso di investire nella realizzazione di una rete wireless che mettesse in collegamento le sedi aziendali con le abitazioni dei proprietari e dei collaboratori appunto dell'azienda P4D. Il principale servizio su questa prima rete è stato il telelavoro, ma naturalmente essa è servita anche come test per valutare la robustezza della tecnologia e dei servizi in ambiente outdoor. Così, agli inizi del 2005, a Ferla, in Sicilia, in provincia di Siracusa, viene attivata la prima rete wireless cittadina della regione Sicilia. I primi, naturalmente i più più immediati beneficiari della nuova infrastruttura sono state le piccole imprese e i professionisti, ma anche i cittadini ovviamente hanno risposto in maniera affermativa sin dalla prima fase di sperimentazione. Infatti noi vediamo comunque anche sul nostro portale che c'è un grandissimo interesse per le connettività outdoor, e appunto i cittadini hanno confermato in pieno il loro interesse attraverso una partecipazione di massa e che è tuttora in continua crescita. Ma dal punto di vista delle potenzialità per il superamento del digital divide, la pubblica amministrazione e gli enti scolastici locali sono stati sicuramente i fruitori dei benefici più evidenti. Alcune sedi del comune hanno adottato i servizi internet wireless, potendo avvalersi di un risparmio non indifferente sia dal punto di vista economico, ma anche da quello del punto di vista dei servizi offerti ai dipendenti e ai cittadini. L'infrastruttura wireless si è dimostrata l'impalcatura essenziale per il funzionamento dell'acquedotto comunale, integrandosi con il sistema di telecontrollo delle sorgenti dei serbatoi, permettendo anche dal web di poter accedere a tutto il sistema idrico. Altro servizio di notevole importanza è stata l'implementazione di un sistema ibrido Voice over IP Wireless tra i tre plessi dell'Istituto Comprensivo di Ferla, permettendo, oltre ad un risparmio effettivo superiore del 50% dei costi telefonici derivati dal taglio delle linee telefoniche, e anche una comunicazione più snella e flessibile tra gli edifici scolastici. È stato attivato inoltre un progetto a mio parere curioso, che si chiama Lighthouse Web Radio, che è stata sicuramente l'applicazione più importante e curiosa realizzata sulla piattaforma wireless della rete civica di Ferla. Attualmente, dopo aver prodotto tutti questi risultati, la sperimentazione è durata fino all'inizio di ottobre, la rete wireless del progetto Ferla è in una situazione di riprogettazione per estendersi in tutto il territorio montano della provincia di Siracusa. Speriamo che in futuro si estenderà veramente. L'azienda di riferimento è la P4D di Pettignano Santo e CSNC in via Verga 8 a Ferla, in provincia di Siracusa. Parliamo ora del progetto sperimentale WaveTech. Infatti la società WaveTech SRL, nel corso del periodo estivo 2005, aveva sperimentato sul territorio del Sebino Bresciano tecnologie di trasmissione via radio in grado di fornire internet a banda larga in tutte quelle aree geografiche non servite dalla tradizionale connessione ADSL, proponendo quindi un'alternativa qualitativamente valida alla connessione via cavo. Scopo della sperimentazione è stato quello di dimostrare le prestazioni e l'affidabilità del nuovo paradigma di diffusione di internet a banda larga, l'utilizzo di onde radio come valido sostituto al normale doppino telefonico. La possibilità quindi di implementare infrastrutture capaci di connettere centinaia di utenti di internet in territori che naturalmente per la propria conformazione morfologica non consentono tuttora l'utilizzo dei metodi classici di connessione, ma anche quella di dimostrare come sia possibile avere un collegamento di internet senza dover necessariamente disporre del telefono fisso. Il servizio di connettività via radio è stato fornito a titolo gratuito a 5 utenti test, di cui 4 privati e un ente pubblico equamente distribuiti sul territorio. I collegamenti radio tra sede centrale e utenti test hanno mantenuto per tutto la durata della sperimentazione una banda costante di 14 Mbps. Questo ha consentito di veicolare sullo stesso canale trasmissivo ulteriori servizi aggiuntivi, quali video, quindi videosorveglianza, creazione di collegamenti privati su più utenti test e comunicazioni telefoniche, voice over IP, e naturalmente anche servizi istituzionali. Da notare che le comunicazioni telefoniche in voice over IP sui sistemi wireless non mancano mai. Il sito di riferimento è www.wave-tech.it. Ma passiamo ora all'ultima parte di questa puntata, quella dedicata al glossario dei termini tecnici in uso nei sistemi di trasmissioni wireless senza fili. E ne presenteremo anche stavolta tre. Oggi parleremo di decibel, di FHSS e di firewall. Il decibel, il cui simbolo è dB, scritto con la D minuscola e la B maiuscola, sono un sistema logaritmico per esprimere il rapporto fra due valori. I decibel sono un sottomultiplo dell'unità di misura denominata bel, infatti 10 dB, ovvero 10 decibel, equivalgono a un bel. Questo sistema di calcolo delle grandezze è particolarmente comodo quando si deve fare uso di formule con moltiplicazioni o divisioni, che con i decibel si trasformano in somme e sottrazioni, semplificando i calcoli. Il dBm è un'unità di misura logaritmica che esprime una potenza P in decibel rispetto a un riferimento di un milliwatt. Nella sezione guide del portale di Wireless Italia è presente, tra l'altro, una comoda tabella di conversione da dBm a milliwatt. Parliamo di FHSS, che è l'acronimo di Frequency Hopping Speed Spectrum, tecnologia impiegata nel protocollo Bluetooth ma anche nell'OMRF, che consente a più utenti di condividere lo stesso insieme di frequenze ed al fine di una maggiore stabilità nella connessione, cambiando automaticamente la frequenza di trasmissione. Lo spectrum spreading consente in una continua variazione quindi di frequenza, utilizzando una modulazione di frequency hopping. Parliamo di firewall. Nell'ambito delle reti è un sistema di difesa dalle intrusioni che può anche svolgere funzioni di collegamento tra due o più tronconi di rete. La sua funzionalità principale è comunque quella di creare un filtro sulle connessioni entranti ed uscenti dalla rete. Un firewall può essere hardware, quindi incorporato all'interno ad esempio di un router, oppure software, ossia installato su un computer collegato poi ad una rete. Il firewall agisce sui pacchetti in transito ed esegue su di essi operazioni di controllo, modifica e monitoraggio. Tuttavia, neppure i firewall sono infallibili, infatti un firewall di fascia media può essere vulnerabile ad attacchi di tipo HTTP tunneling o DLL injection. Si chiude qui anche la puntata numero 3 del podcast sperimentale di Wireless Italia. Io spero abbiate trovato interessanti gli argomenti trattati oggi e vi invito come sempre ad esprimere le vostre opinioni o di inviare i vostri suggerimenti presso il mio indirizzo di posta elettronica, che è matteo.savoldi@wireless-italia.com. Grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata.